You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi, solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Allora, benvenuti a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa tarda cena a Radio 24. Questa sera è dedicata a un ospite che viene dalla Polonia, Jolanta Kowalczyk. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Ormai italiana, vive da tanto tempo qui, poi lo racconteremo, ma proviene appunto dalla Polonia, si dedica alla riabilitazione residenziale e ha molte competenze conseguite anche nei suoi studi di neuropata, nel cibo e anche nella riabilitazione. E ha scritto questo interessantissimo libro su un alimento che è molto poco conosciuto, direi, in Italia. Io non lo conoscevo personalmente. Si chiama kefir, è un fermento della salute. Adesso in questa breve scheda sentiremo di cosa si tratta. Secondo la leggenda, Maometto avrebbe donato i primi grani di kefir agli avi dei montanari del Caucaso, che per questa ragione l'hanno chiamato miglio del profeta. In realtà è difficile stabilire in che modo si sia ottenuta la miscela di microorganismi che compone i granuli di kefir. L'uso di consumare latte fermentato è estremamente antico. Ve ne sono testimonianze nel libro della Genesi e nel Milione di Marco Polo. Ma cos'è il kefir? È una bevanda ricca di fermenti lattici e probiotici ottenuta dalla fermentazione del latte. Contiene circa lo 0,8% di acido lattico. Ha un gusto fresco ed è un alimento nutriente. Originario del Caucaso, è tuttora molto popolare nell'ex Unione Sovietica. Il kefir tradizionale viene preparato utilizzando latte fresco, di pecora, capra o vacca e i fermenti o granuli di kefir, formati da un polisaccaride chiamato kefiran, che ospita colonie di batteri e lieviti in associazione simbiotica. I fermenti del kefir sono adattabili e quindi utilizzabili anche per fermentare altri liquidi con contenuto di zuccheri, come i latti di soia o riso, e l'acqua con l'aggiunta di zucchero, frutta o altri aromi. Allora, Jolanta, non so se abbiamo detto bene, insomma, è un alimento ottenuto dal latte fermentato, noto sin dall'antichità e poco conosciuto in Occidente. Però in Polonia in realtà è molto conosciuto. La Polonia è il secondo produttore mondiale di kefir. Sì, è un alimento che è conosciuto non solamente in Polonia, ma in tutto il mondo orientale. È conosciuto in Polonia, in Russia, in Turchia, in Asia. E ultimamente diciamo suscita l'interesse in Occidente sull'onda dell'interesse verso i probiotici e anche verso i cibi funzionali, per cui questo kefir, diciamo, sta tornando un pochino alla ribalta. È un alimento con il quale io sono cresciuta e che è molto diffuso in Polonia. Pensi che lo consuma il 49% delle famiglie, chi di più, chi di meno. Però è presente in tutti i supermercati, ci sono per chi volesse immaginarselo, è una specie di latte acido, oppure prende anche la forma di fiocchi di latte, no? Allora, guardi, è un latte fermentato acido alcolico, così viene definito, perché a differenza dello yogurt, questo latte contiene anche un po' di alcol, no? E si può fare in casa, no? Certamente si può fare in casa utilizzando i granuli. Ci si procura questi granuli? Allora, questi granuli possono essere comprati esclusivamente o su Facebook o su internet, sull'eBay. Diciamo, non sono disponibili in vendita, o uno se li fa regalare da qualcuno, insomma c'è un po' come lo yogurt, no? Qualcuno che ha lo yogurt madre, da cui arrivano tutti gli yogurt a casa di amici. Non con lo yogurt, perché sono due alimenti diversi e messi spesso in contrapposizione, in quanto certo lo yogurt è più conosciuto, più diffuso, più, diciamo, anche più amato, perché è più versatile. Che lo yogurt può essere prodotto aggiungendo al latte fresco un po' di yogurt dentro una yogurtiera, perché i fermenti che contiene lo yogurt fermentano a temperature alte, per cui dobbiamo avere una yogurtiera per arrivare a 40 gradi, no? Per produrre uno yogurt. Invece con il kefir non è così. Per produrre il kefir noi dobbiamo avere questi granuli che poi, una volta messi nel latte fresco, producono il kefir, la bevanda che consumiamo. Dopodiché questi granuli li tiriamo fuori e li mettiamo in un altro latte fresco e continuano a produrre all'infinito, praticamente. Noi, avendo una colonia di granuli, possiamo produrre il kefir all'infinito. Stood by the harbor, her hand set in a wave. The light now more evening than day. Now I see the beauty I failed to see when she was me. Me of her strap by strap, like a silk dress, she fell to my feet. She brought. Considerando che noi siamo sempre a dieta, siamo molto attenti alle calorie che consumiamo, il kefir si presta molto per sostituire, per esempio, la panna. E nella cucina polacca viene spesso sostituito e messo al posto della panna. Con la panna, per esempio, con la panna acida in Polonia si condiscono le verdure, no? L'olio di oliva non c'è, noi abbiamo la panna acida e con quella condiamo le verdure, per cui spesso e volentieri il kefir viene usato per condire le verdure, oppure come l'ingrediente per fare le torte al posto del latte, o anche come l'ingrediente per quando facciamo il pane fatto in casa. Poi serve anche come prodotto di bellezza per il nutrimento della pelle. Kefir contiene i fermenti lattici che producono acido lattico, che è disinfettante e anche astringente, per cui è molto adatto alle pelli impure, pelli grasse, per combattere l'acne. Può essere semplicemente schiacciato aggiungendo una banana per fare una maschera eccezionale, oppure addirittura può essere spalmato sulla pelle, lasciato 10 minuti, un quarto d'ora e poi risciacquato. È un po' come il limone, ha l'effetto astringente sulla Ma pelle. Questo prodotto si può trovare anche a livello industriale? Allora, il prodotto a livello industriale si trova nella catena dei negozi discount in Italia, per esempio. Non è di produzione italiana, è di produzione cecoslovacca o tedesca, mi sembra. Per cui ribadisco, procurandosi una colonia di granuli si può produrre benissimo a casa, con una grande soddisfazione di poter produrre un alimento da noi e anche con una spesa minima. volendo poi rallentare la fermentazione, lo mettiamo dentro il frigorifero e così lo conserviamo. In 2 giorni impiega 6, 7, 8 giorni. Allora, ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare con lei tra pochissimo dopo una breve pausa. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole ogni istante 1.000 baci, 1.000 carezze vuole allora. Con 24.000 baci. No, non sono impazzita. 24.000 baci perché fa parte della colonna sonora di un film. Pensate che ha vinto l'Oscar, l'ultimo Oscar come miglior pellicola straniera, è il film Ida di Paweł Pawlikowski, ambientato nella Polonia anni 60. Quindi lei lo conosce, Iolanta, questo film? L'ha visto? Sì, ma io l'ho visto prima che partecipasse alla notte degli Oscar, perché insomma cerco di seguire anche le cose che accadono in Polonia. Ho trovato affascinante il fatto che abbiano usato questa musica. Ovviamente il film è ambientato appunto negli anni 60, questa canzone era molto in voga, probabilmente anche in Polonia. È una storia molto bella di queste due donne, una ragazza che sta per prendere i voti e la zia. Lo raccontiamo per gli ascoltatori in modo che se lo trovano in qualche cinema lo vadano a vedere. E comunque una grande soddisfazione per il cinema polacco, ci sono tantissimi grandi autori polacchi, Kieslowski mi viene in mente, grande soddisfazione, no? Cosa si è detto nel suo paese? Lei ha avuto l'eco di questa soddisfazione anche da qui? Sono andata 3-4 settimane in Polonia, devo dire il film è sparito, il film è sparito subito dai cinema polacchi, forse un pochino come in Italia, perché non lo so, La grande bellezza di Sorrentino è un bellissimo film, ha vinto l'Oscar l'anno scorso, però come gli incassi al botteghino, non so se abbia avuto questo grandissimo successo. Insomma, nessuno è profeta in patria, come si dice, no? Lei ci ha raccontato benissimo di questo ingrediente, il fermento della salute, kefir, a cui ha dedicato il suo libro, ma noi vogliamo sapere qualcosa anche di lei, che sta in Italia da tanto tempo, e come mai è arrivata dalla Polonia? Sono arrivata dalla Polonia nel lontano 1988. Mi ero laureata da poco, da un anno, e doveva essere un viaggio turistico. Non ero mai andata all'Occidente, non ho mai visto l'Occidente, sono andata 2 volte in Russia, ho visitato i paesi dell'Est, ma non sono mai andata all'Ovest e questa cosa mi incuriosiva tanto, volevo vedere questo mondo così fiabesco, così misterioso, no? Che conoscevo attraverso i racconti, perché non è che si facesse questa grande pubblicità da noi in Polonia. Si elogiava la realtà nostra disprezzando quella degli altri, dei paesi dell'Ovest in particolare. E niente, allora abbiamo intrapreso questo viaggio, io e altre 2 amiche siamo venute in Italia con un visto di 1 settimana e poi siamo rimaste, sì, io sono rimasta, la mia amica è ritornata dopo parecchi anni, è ritornata in Polonia. E questa è diventata la sua terra, lei si sente straniera o ormai si sente italiana? Mi sono sentita subito a casa mia, nel senso che ho cercato di integrarmi, di imparare bene la lingua, perché la lingua è la chiave di tutto. Ho cercato di approfittare di stare in Italia per poter anche crescere. Apprendere, imparare, tuffarmi in questa cultura meravigliosa, stupenda, italiana. Ha mai sentito su di sé un pregiudizio? Guardi, inizialmente indubbiamente sì, Mi ricordo ancora le volte che uscivo dagli uffici dove andavo per rinnovare il permesso di soggiorno, disperata, quasi piangendo, no? Ero magari anche un po' esagerata, però a volte mi sentivo umiliata anche dalle piccole cose, dal fatto che l'impiegato dava a tutti del lei, a me dava del tu, no? E a questo punto ho deciso di imparare bene la lingua, era il mio modo di difendermi, di farmi un po' di spazio. Anche qui una musica tratta da un film di Kieslowski, La scelta di Veronica, ma lui lo ricordiamo come autore del meraviglioso decalogo e poi della trilogia Bianco, Blu, Rosso. E questa musica che ci porta appunto in atmosfere cinematografiche e come dicevamo ispirata appunto a questi film di Kieslowski, che si interroga sempre intorno anche spesso alla religione, no? È molto forte in Polonia questo afflato religioso. Noi poi conosciamo il paese perché ha dato i natali al Papa, no? Papa Wojtyła. Sì. La Polonia è molto cambiata, la Polonia è cresciuta, sono parecchi anni che è entrata a far parte della comunità europea, è stata una grandissima svolta nel 2004, mi sembra, primo paese che riesce a sfruttare al massimo i fondi della comunità europea. In Polonia si costruisce a tutto spiano. In Polonia c'è una vitalità perché c'è ancora una grandissima crescita e l'economia è molto viva, anche guardando così, io come ha detto lei giustamente prima, io da turista vedo le cose ormai da turista quando vado 2-3 volte l'anno, vedo la gente che compra, la gente che spende, i negozi che aprono, i grandi supermercati che aprono, le macchine che girano, è un po' come in Italia, ognuno ha un'automobile, in famiglia ci sono 2-3 automobili, in Polonia ancora si costruiscono i palazzi, case e si vendono ancora le case, il mercato immobiliare è molto, molto vivo. Ogni tanto parlo con mio fratello che vive lì e lui mi racconta che le banche fanno a gara per offrire un mutuo, non è come in Italia che insomma avere un mutuo è impossibile, e in Polonia ancora è giusto, tutto è in fermento. La Polonia è tra i 30 paesi più innovativi del mondo, secondo il rating pubblicato dall'agenzia Bloomberg. Secondo la Banca Mondiale, il PIL polacco raggiungerà il 4% nel 2016, e anche a Expo 2015 noi stiamo seguendo questa manifestazione, c'è un padiglione appunto che presenta le innovazioni della Polonia. In tutto questo fermento non le viene voglia di tornare? No, non mi viene voglia di tornare. Se lei mi faceva questa domanda 5-6 anni fa, forse avrei detto di sì. Cosa è cambiato? È cambiato che non mi ritrovo più nella Polonia di oggi. Mi sono persa 25 anni della Polonia e 25 anni vissuti qua in Italia, ho fatto le mie radici, la mia famiglia è qui, il mio figlio è nato qui, ho degli amici qui, il lavoro in Polonia, non saprei da dove cominciare, non saprei che cosa fare. Con la Polonia mi lega la mia famiglia, i miei genitori, mio fratello, qualche amico che mi è rimasto. E basta, è qualche ricordo, nient'altro, sinceramente. Ecco, lei raccontava appunto del fatto che ha un figlio qui. E lui invece queste radici come le vive? Come qualcosa di esotico e lontano? Oppure ad esempio attraverso, mi viene da dire, la cucina a volte, no? Tra le tradizioni, le cose che noi portiamo in casa, ha ben presenti queste radici che ha anche altrove attraverso la mamma? Lui da quando è nato viaggia, va in Polonia ogni anno. Quando era piccolo, andava alle elementari, alle medie, un po' soffriva qualche volta per il fatto di essere mezzo polacco, mezzo italiano, perché magari qualche amichetto faceva qualche battuta infelice, no? E lui non sapeva come gestire queste situazioni, no? Tornava a casa, ne parlava, a volte parlava, a volte non parlava. Comunque adesso che è grande, diciamo che ne va fiero, ecco. Quando va a giocare le partite con gli amici, si mette la maglietta della nazionale polacca, per esempio. È consapevole delle sue radici. Per quanto riguarda la cucina polacca, io ogni tanto ci provo qui a casa a introdurre qualcosa, però insomma non è molto facile, perché questo attaccamento alla pasta, di mangiare la pasta tutti i giorni, non è facile da praticare. La cucina polacca è basata prevalentemente sulle zuppe, alcune molto, molto ricche, anche patate, carne di maiale, è insomma parecchio diversa dalla cucina italiana. Pollo al kefir. Ingredienti per 3 persone: 6 coscette di pollo, 0,5 litri di kefir, 2 spicchi d'aglio, 2 cucchiai d'olio d'oliva, 1 cucchiaino di pepe macinato, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di miele. Mettere in una ciotola aglio tritato, pepe, sale, miele, kefir e olio. Mescolare bene. Disporre i pezzi di pollo in un recipiente capiente e versarci sopra la marinata. Coprire il recipiente con una pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo per almeno 6 ore. L'ideale sarebbe lasciarlo marinare per un'intera notte. Scolare il pollo e cuocerlo nel forno a 190 gradi per 40 minuti, finché non diventa dorato. Yolanta, ma lei fa un lavoro particolare, ci vuole raccontare qualcosa del suo lavoro? Sì, allora io lavoro in un centro di riabilitazione residenziale per 20 ragazzi e semi-residenziale per altri 30. Parliamo dei ragazzi con il ritardo mentale. I nostri sforzi è quelli di fargli raggiungere il livello di vita migliore possibile. La maggiore autonomia possibile. Maggiore autonomia a livello fisico, funzionale, sociale, emozionale. Tante energie, ma danno anche tanto in cambio, per cui è una scuola di vita per noi che lavoriamo lì dentro, impariamo ad ascoltare, non solo sentire, a vedere, a guardare, a fermarci un attimo, avendo davanti una persona con dei problemi. Queste sono cose. Quali sono le maggiori difficoltà che incontra? A volte non comunicano verbalmente il loro disagio, per cui lo sforzo che devo fare io personalmente è quello di capire, attraverso il linguaggio del corpo, attraverso vari segnali che mandano questi ragazzi, attraverso anche il linguaggio verbale ma codificato a volte, capire che problemi hanno, che potenzialità hanno, che disagio subiscono, e cercare di risolvere questi problemi. Quando diceva che vi danno anche molto in cambio, qual è la cosa che le danno di più? Sono molto spontanei nelle loro reazioni, quelle belle, quelle brutte, quelle positive o quelle negative. Non portano rancore, manifestano subito quello che sentono, per cui magari c'è un momento che ti abbracciano, ti baciano. In un'altra situazione magari tirano una sedia, per dire, no? Una grande cosa che ho imparato è quello di essere spontanea nelle mie reazioni, un po' come loro. Life undressed me of her, strap by strap, like a silk dress she fell to my feet. She brought me flowers, said she liked my words. I thought she couldn't do us any harm. He never liked that kind of tone. But how could he resist when her dress let in the autumn sun? Used to watch the sparrows perched on electric wires. Io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi, Jolanta Kowalczyk. Grazie a lei e buonasera a tutti. Grazie a Filippo Reggi in regia, a tutti voi per essere stati all'ascolto questa sera. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory of love.